Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dei dati di oggi sulla produzione industriale, che al di là del dato aggregato e complessivo vanno visti nel dettaglio, come continuiamo a dire da intere settimane, perché è chiaro la difficoltà di tutto il settore industriale, ma poi all'interno del settore industriale ci sono profonde differenze in come si sono mossi i vari comparti nei mesi di aprile. Il dato è su aprile: la contrazione complessiva è stata di quasi il 20%, meno 19,1% rispetto a marzo, e invece meno 42% rispetto ad aprile del 2019. È un nuovo record nella serie storica disponibile, quindi da quando la misuriamo, dal 1990, non si è mai avuto un crollo del genere, ed è stata ampiamente purtroppo superata il record precedente, che era del periodo 2008-2009, la crisi finanziaria del 2008-2009. È interessante poi guardare dentro i dati, perché, come era immaginabile, però adesso ne abbiamo anche certezza. Da un lato la flessione della produzione industriale è stata meno ampia ad aprile che a marzo. A marzo avevamo fatto meno 28% sul mese precedente, ad aprile abbiamo fatto meno 19% sempre sul mese precedente. Però, e quindi c'è un leggero recupero, anche perché qualche attività in più aveva riaperto. Sempre mese su mese ci sono dei comparti che non hanno avuto un calo, pochissimi purtroppo. Il farmaceutico più 2% e stabile il settore alimentare. Se invece si guarda all'aprile dell'anno scorso, non c'è nessun comparto che si salva. La farmaceutica è quello che fa meglio, fa un meno 6,7%, e l'alimentare fa meno 8%. C'è un crollo, un tonfo senza precedenti per il tessile e i trasporti. Il tessile, sostanzialmente, tessile, abbigliamento, pelli, accessori, fa meno 80%, mezzi di trasporto meno 74%. Se poi si va a vedere gli autoveicoli, è chiaro che l'industria era praticamente chiusa, meno 100% rispetto alla base annua, cioè meno 98% sull'anno precedente. E nei primi quattro mesi la produzione industriale ha già fatto un meno 18,7%. Speriamo, come dice la Confcommercio, che si sia toccato il minimo con i dati oggettivamente drammatici di aprile, e che questo sia, devo dire che appunto guardando il congiunturale mese su mese, sembrerebbe così, cioè il crollo pesantissimo anche ad aprile è più basso del crollo di marzo rispetto a febbraio, quindi aprile rispetto a marzo è più basso rispetto a marzo verso febbraio. Il crollo delle ore lavorate corrisponde a 1.600.000 unità di lavoro. Cosa vuol dire? Che se tu prendi le ore in meno lavorate e le distribuisci come l'equivalente di un dipendente a tempo pieno, e fare la divisione su questo, viene fuori che è come se fossero mancati al lavoro 1.600.000 occupati a tempo pieno. E questo è il numero delle ore lavorate, perché poi sappiamo che uno può risultare occupato ma magari lavorare la metà, 4 ore invece che 8, e via così. E di questo parleremo in apertura. Poi la borsa, oggi è una giornata, ora bisogna guardarla in prospettiva. Abbiamo raccontato proprio la settimana scorsa dei record, comunque delle forti crescite toccate dalle borse in tutto in queste settimane, quindi il calo oggi è molto pesante, è un 4,30% a Milano, un 4,30% a Parigi, un 3,80% a Francoforte, Londra meno 3,5%, l'America ha contribuito e come, perché il Dow Jones adesso perde il 4%. Attenzione, ripeto, se si guarda in prospettiva uno può anche immaginare che vi siano, insomma, dei realizzi, quindi delle vendite dopo i rialzi dei giorni scorsi. Se le guardiamo invece come dato giornaliero, qui insomma c'è un timore che è arrivato soprattutto dagli Stati Uniti in una seconda ondata a settembre e timori anche di una ripresa più lunga negli Stati Uniti, perché c'è uno studio dell'Institute for Health Metrics dell'Università di Washington, citato da CNN, che dice: attenzione, le vittime negli Stati Uniti dagli attuali 110.000 persone potrebbero balzare a 170.000 entro il primo ottobre, e tra settembre e ottobre vi sarà un nuovo picco che dovrebbe portare, secondo lo studio, il numero di decessi negli Stati Uniti fra i 133.000 e i 290.000 persone. Ora è chiaro che dopo questo studio, in alcuni casi fosse un pretesto, in altri no, ma si è andati a vendere su tutti i mercati. Faccio notare che appunto CNH, che è anche quotata a Wall Street, perde l'11,31%, Atlantia l'8%, Fiat Chrysler il 7,5%, Pirelli 7,40%, Salvatore Ferragamo 7,20% come Banco BPM. Il 7% lo perde anche Telecom Italia e Unicredit e Saipem. Poi il 6,80% il calo di Exor, il 6,5% quello di Tenaris, il 6% quello di Eni. Mi fermo con chi perde più del 4%, e quindi Mediolanum meno 5,80%, Biper e Leonardo meno 5,20%, Azimut meno 5% come Banca Generali, il 4,80% lo perdono Buzzi Unici e UBI Banca, il 4,5% Moncler e il 4,20% Intesa San Paolo, ma anche A2A e Poste Italiane. Di positivo c'è solo di Assorin, più 1,95%. Prima Piazza Affari durante la giornata era nettamente la peggiore, non è che in questo caso si possa dire mal comune mezzo gaudio, ma insomma meno 4% Milano, meno 4% anche Parigi, almeno possiamo dire che siamo assolutamente in linea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parleremo appunto di borsa, dei dati sulla produzione industriale, ma avremo anche ospite, dopo averlo cercato, devo dire, lo ringrazio per la disponibilità, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, Agostino Miozzo, ed è il CTS quello che ha dato le indicazioni anche al Comitato per la riapertura delle scuole su come aprire o non riaprire le scuole. E quindi sappiamo che anche Patrizio Bianchi, quando ha fatto la sua relazione, ha detto: noi ci siamo poi attenuti alle indicazioni che arrivavano dal Comitato Tecnico Scientifico, non abbiamo scelto noi come e quando riaprire le scuole. E infatti lui appunto è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico presso la Commissione Istruzione e Cultura alla Camera dei Deputati, nel giorno in cui comunque il Veneto ha anticipato il MIUR, il Ministero, e ha riaperto gli istituti professionali, così i ragazzi possono preparare gli esami insieme, e cercheremo di capire appunto gli elementi, visto che abbiamo chiesto spesso, almeno che ci venisse spiegato in maniera molto chiara e trasparente, quali elementi ha preso in considerazione il Comitato Tecnico Scientifico Italiano a differenza di quelli spagnoli o francesi, che invece le scuole, pur con un limite di 15 alunni per classi, pur con altre limitazioni, ma li hanno riaperti, la Francia dall'11 maggio e poi 18 maggio e poi dal 2 giugno ha riaperto tutte le scuole, compresi i licei, la Spagna dal 26 maggio e poi adesso sta riaprendo anche altri istituti. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, sulla scuola mi scrive, immagino, una mamma che mi dice: ma qualcuno ha idea del sacrificio, del lavoro, della fatica delle mamme nel gestire i figli diciamo, a casa con le lezioni a distanza? Certo, l'abbiamo ricordato più volte che in questo momento, ma come ha detto anche Saraceno ai nostri microfoni, si è scaricata sulla famiglia tutto il carico delle scuole chiuse, diciamo, tutta, perché tanto in questo paese poi alla fine l'ultima rete di protezione quando c'è è la famiglia, quindi nessuno ha negato, anzi ha preso sotto gamba il fatto che poi tutto questo si sia scaricato sulla famiglia e soprattutto, ahimè, sulle mamme, oltre al problema adesso di avere le donne che lavorano, non sanno bene dove lasciare i figli, ma adesso vi arriveremo. Invece vorrei rispondere a chi, perché oggi ancora continua a scrivermi sul ponte, sullo stretto, la distanza fra le due sponde. Oggi vi è tornato anche Renzi, se ho ben visto, che ha detto di essere a favore del ponte sullo stretto. Allora guardate, io non ho in questo momento una preclusione a priori sul ponte sullo stretto, dico solo che non è una priorità e mi sembra fumo gettato così per parlare d'altro. Guardate, c'è un rapporto dell'ANCI, dei costruttori italiani, una specie di blacklist sulle opere bloccate dove ci sono comunque già finanziamenti. Allora ci sono 750 cantieri bloccati in questo paese da nord a sud per opere per 273 miliardi. Nel 70% dei casi queste opere hanno già avuto il finanziamento a bilancio, ma la burocrazia rallenta gli interventi. Poi se guardiamo le opere, diciamo, più grandi, anche se io ritengo che debbano essere fatte anche e soprattutto quelle più piccole, comunque 101 di questi interventi sono classificati come grandi opere, cioè vanno da 100 milioni di euro in su, per un ammontare complessivo di 56 miliardi. Le altre sono 648 opere medio piccole che valgono 5 miliardi e mezzo, che dovrebbero essere più facili, dovrebbe essere più facile farle ripartire. Allora, un paese serio che non butta sempre la palla di là sulla siepe, inizia a chiudere queste opere, le 648 piccole e medio piccole che valgono meno di 100 milioni e anche le grandi che valgono 56 miliardi. L'ANCE stima un potenziale di 962.000 nuovi posti di lavoro e 217 miliardi di ricadute sull'economia, se solo prendessimo in considerazione appunto i 101 interventi e le altre opere. Quindi facciamo quello e poi parliamo del ponte sullo stretto, che non mi sembra una priorità, e parliamo anche, ieri giustamente alcuni ascoltatori mi hanno scritto che ci hanno messo 8 ore a fare la Siracusa Palermo Catania via treno, cioè uno di sé. Allora sistemiamo questo e poi guarderemo anche sto ponte sullo stretto, ma io dico, ma cioè, andiamo per priorità su. Eccolo qua, mi ha scritto 70 km tra Catania e Ragusa, circa 2 ore. Volete fare il ponte sullo stretto? Fa 70 km in treno, 2 ore. Manca solo gli indiani, i bufali, capito, le praterie, perché 35 km all'ora, da come capisco, va il treno. Allora, andiamo con le altre notizie. Per quello che riguarda appunto lo studio americano che è stato un pretesto forse, o comunque uno spauracchio per vendere sui mercati, Gentiloni oggi ha detto invece, il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, intervenendo al webinar organizzato da Sole 24 Ore fuori dall'emergenza sanitaria in una nuova Europa, ha detto: attenzione, che ci sia una discussione sul recovery fund mi pare inevitabile, ma ci sono due punti importanti: nessuno ha sbattuto la porta, quindi si discute sul merito, e non ci sono atteggiamenti di totale chiusura da parte anche dei paesi più critici. È stata resa possibile e necessaria questa proposta ovviamente da questa crisi senza precedenti. Che ci sia una discussione mi pare ovviamente inevitabile. Qui però ci sono due punti. Il primo è che nessuno ha sbattuto la porta di fronte a questa proposta. Quindi si discute nel merito, non si discute con atteggiamenti di totale chiusura. La seconda è che io credo nell'interesse di tutti i paesi europei, anche di quelli che appaiono più riluttanti, questa proposta deve essere alla fine condivisa nella sua sostanza. Si possono aggiustare piccoli dettagli, ma certamente non la si può ridurre o modificare sostanzialmente se vogliamo essere all'altezza di questa crisi. E ancora sempre sul su dove mettere gli investimenti, visto che parlavo del ponte sullo stretto, gli investimenti in infrastrutture non sono solo, diciamo, quelli in infrastrutture fisiche, materiali, anche in infrastrutture digitali. Allora, l'Italia oggi, lo scopriamo dal rapporto della Commissione Europea, l'indice della Commissione Europea che misura il grado di digitalizzazione della società, l'Italia resta tranquillamente tra il fanalino di coda in Europa, è al 25esimo posto, ha perso anche una posizione, peggio di noi fanno solo Romania, Grecia e Bulgaria. L'Italia è in buona posizione nella preparazione al 5G, arrivata al 60%, ma frena sulla connettività nel suo complesso, facendo registrare un ritmo di crescita più lento rispetto agli altri stati membri. Il numero di specialisti laureati nel settore delle telecomunicazioni è al 2,8%, un punto più basso della media europea, e questo si riflette anche nel modesto, scrive il rapporto, utilizzo dei servizi online, compresi i servizi pubblici digitali. E visto che parliamo anche della situazione poi dei laureati nel settore delle telecomunicazioni, vorrei dare due notizie oggi che riguardano il mondo dell'università, in questo caso poi do anche una risposta ad alcuni ascoltatori. Una è uscita la classifica globale che è quella più consultata al mondo, è il QS World University Rankings, e devo dire che sono 36 le università italiane che rientrano nella classifica delle migliori università al mondo. Tra l'altro l'Italia è il settimo paese più rappresentato al mondo e il terzo dell'Unione Europea. Meglio di noi fanno Regno Unito con 86 università, Germania con 45, poi c'è l'Italia con 36, poi Francia con 28 e Spagna con 26, quindi rispetto a paesi nostri molto simili a noi come la Francia siamo davanti. Faccio notare che il Politecnico di Milano ha raggiunto la 137esima posizione guadagnando 12 posizioni ed è la prima università italiana, ma bene anche l'Università di Bologna che è avanti di 17 posizioni, la Sapienza di Roma che scala 32 posizioni e rientra di nuovo nelle 200 migliori al mondo, conquistando il 171esimo posto, e anche il Politecnico di Torino avanza di 40 posizioni. Devo dire, per essere corretto, che ci sono anche delle new entry: l'Università Vita Salute San Raffaele, la Libera Università di Bolzano, l'Università della Calabria e l'Università Politecnica delle Marche. Tra l'altro il ministro Manfredi ha annunciato che sulle università vi saranno 233 milioni destinati agli studenti più disagiati dopo il Covid, e questa è una cosa. L'altro elemento riguarda invece il rapporto Alma Laurea, presentato oggi, che va a vedere invece i percorsi universitari dove c'è maggior sbocco lavorativo. Allora, c'è stata una ripresa delle matricolazioni l'anno scorso, più 11% dopo un calo continuo. Nonostante ciò, rispetto al 2003-2004, le università hanno perso circa 37.000 matricole, meno 11%. Soprattutto al sud, meno 23%. E soprattutto tra i diplomati tecnici e professionali e tra coloro che provengono da contesti familiari meno favoriti. Nei primi mesi del 2020 il tasso di occupazione era al 65% tra i laureati di primo livello e al 70% rispetto a quelli di secondo livello. È chiaro che però si è sentito, soprattutto a marzo in poi, anche l'effetto Covid, perché rispetto al 2019 tutte e due le percentuali sono in calo, e stiamo parlando del numero di occupati a un anno dal conseguimento della laurea, come ha raccontato il presidente di Alma Laurea, Ivano Dionigi, al microfono della nostra Maria Piera Cecci. Negli ultimi anni noi abbiamo un aumento dell'occupazione dell'8% per quelli di primo livello e del 5% per quelli di secondo livello, solo che dovevamo recuperare un meno 16 rispettivamente un meno 15 punti, quindi anche qui il saldo non è ancora positivo rispetto al 2007-2008. Questo vale sia per l'occupazione sia per le retribuzioni, quindi il trend positivo dal 2014 in poi, per iscrizioni, per occupazione, per retribuzioni, ma non ancora tale da ripianare il deficit che c'è stato prima degli anni orribili della recessione. E che subisce uno stop importante nel 2020. Le cose vanno bene, ancora in progressione fino a gennaio, e poi le avvisaglie sono veramente cupe. Come avete fotografato questo stop, diciamo, dell'interesse ad assumere? Riguardo ai dati e alla banca dati di Alma Laurea, che contiene ben 3 milioni e 100 curricula, noi l'anno scorso avevamo a gennaio 86.000 richieste da parte di 16.000 aziende, a gennaio di quest'anno erano salite ben 100.000 richieste e poi sono cominciate a calare progressivamente a febbraio, marzo con il tracollo aprile. Il calo collassato delle richieste di curricula ci dimostra proprio l'assenza del lavoro. Due categorie svantaggiate, se possiamo dire, quelle che fotografa Alma Laurea, i giovani del sud e le donne. Sì, anzitutto i ragazzi del sud già in partenza, uno su quattro non si ferma al sud e va al centro-nord. Di questi, quando si laureano poi, il 46% va a lavorare al centro, al nord o all'estero. E l'esame di questi primi mesi del 2020 dimostrano che rispetto a quel meno 9% del calo di occupazione, soprattutto chi abbassa decisamente la media sono i giovani laureati del sud e le donne, che sono le più preoccupate, le più colpite anche da questo coronavirus. E invece poi parleremo della scuola dell'obbligo e non solo, con il responsabile del Comitato Tecnico Scientifico per l'Istruzione, quello a cui ha fatto riferimento poi il Ministero per decidere la non apertura, e adesso speriamo di aver capito le modalità della nuova apertura. Quasi 60... Vabbè, vedo molti messaggi sul ponte, sullo stretto, ripeto, non voglio parlare, non mi sembra anche un argomento di attualità in questo momento, non ho detto che sia del tutto inutile, ma non in questo momento. Invece vorrei far notare altri elementi che riguardano il tema che trattiamo praticamente ogni giorno, della liquidità delle banche alle imprese, o meglio, le banche fanno da tramite, visto che c'è la garanzia del 100% dello Stato fino a 30.000 euro con la nuova legge. Però allora, oggi il consiglio di gestione del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese, quello che rilascia le garanzie 100% fino a 30.000, poi sapete che si arriva al 90% fino a 800.000, ha comunicato al Ministero che entro 2 settimane, se i ritmi delle richieste rimarranno costanti, i fondi stanziati, sono quasi 6 miliardi, saranno esauriti. Nell'ultimo mese le operazioni arrivate ogni giorno sono state quasi 20-21 mila, il fabbisogno potrebbe arrivare a 19 miliardi, e insomma si sta valutando anche di abbassare la quota di accantonamenti che il fondo fa per coprirsi dall'insolvenza. Al momento per i prestiti fino a 30.000 euro c'è 1 euro accantonato che ne garantisce 3, per quelli di importo superiore a 1 euro accantonato ne garantisce 12. La Banca d'Italia fa notare che c'è stata un'accelerazione dei prestiti, ma c'è una grossa differenza ancora tra banche e banche, e segnalano che essa non si sta per il momento attenuando, lo dice lo stesso capo di Dipartimento della Vigilanza Bancaria. Ha funzionato, lo dicevamo anche noi nei giorni scorsi, la moratoria invece sui prestiti, e Angelini ha detto attenzione, anche le banche saranno colpite dalla crisi. Noi qua abbiamo diviso il mondo in banche e altre imprese. Le altre imprese sono colpite dalla crisi, le banche no. Questa è una proposizione fallace. Le banche verranno colpite dalla crisi, questo è poco ma sicuro. Le simulazioni che abbiamo non sono rassicuranti su questo fronte. È evidente che una perdita di PIL, sia essa del 9%, sia essa più elevata, non potrà non incidere sulle imprese e a catena sulle banche. Quindi occorre ricordare che le banche sono imprese di mercato. E visto che parliamo degli strumenti, l'altro strumento, la cassa integrazione, ieri appunto abbiamo scoperto dalla lettera inviata dal presidente dell'INPS Tridico che le imprese hanno anticipato quasi il 60% della cassa integrazione già erogata, cioè 4.600.000 sono state anticipate dalle imprese su 7.300.000, ballano ancora secondo l'INPS 500.000, domani venerdì, ha detto Tridico che entro venerdì verranno pagate le domande che non hanno ancora ricevuto un euro. Oggi il ministro del lavoro Catalfo ha detto: con la cassa integrazione siamo arrivati a regime, sono state erogate più di 7 milioni di CIGA ai lavoratori, sì, appunto, più del 60% grazie all'anticipo delle imprese. Nei prossimi giorni si cercherà di pagare tutti, e le domande per il reddito di emergenza presentate sono 270.000 in 15 giorni. Poi faccio notare che, questo purtroppo lo vedevamo anche prima del Covid, hanno beccato 37 appartenenti alla cosca dell'Andrangheta Piero Malli Molè di Gioia Tauro, tra cui soggetti già condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, due dei quali erano anche sottoposti alle misure della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno, e anche figure apicali dell'Andrangheta del mandamento tirrenico, e hanno beccato 37 di questi che stavano percependo il reddito di cittadinanza, con un danno complessivo di 280.000 euro. E per fortuna che almeno non incasseranno i 134.000 euro che avrebbero incassato nel futuro. E tu difendi il reddito di cittadinanza? Sì, lo difendo, perché non, come misura di welfare, non mi basta che becchino. Non è che il problema della Calabria sia solo, o del paese, l'Andrangheta che sfrutta il reddito di cittadinanza, se no dovremmo levare anche la 104 sulle basi di questo principio, o tutte le forme di welfare, penso a indennità varie, sapendo che ci sono i falsi invalidi, i falsi ciechi e quant'altro. Il problema è beccarli. Comunque, andiamo invece sulla produzione industriale di oggi e anche gli stati generali dell'economia e il piano Colao, con un economista che, insomma, la dice sempre in maniera molto schietta, ciclicamente lo intervistiamo anche per questo, Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Roma Tor Vergata, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professor Piga. Buonasera, ben ritrovato, come sta? Bene, grazie. Allora, le chiedo un minuto di pazienza, ho il meteo e poi intanto i dati della produzione industriale, stati generali e anche il piano Colao, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Allora, professor Piga, i dati di oggi sulla produzione industriale nel mese di aprile, oltre che essere chiaramente drammatici, come ricordavamo in apertura, nel confronto con, cioè, un nuovo record da quando le misuriamo, dal 1990, meno 42% ad aprile rispetto a un anno prima, segnalano però due cose, a mio avviso. Uno, che è una contrazione meno ampia rispetto a quella di marzo, cioè marzo su febbraio ha fatto meno 28%, aprile su marzo fa meno 19%, perché qualcosa era riaperto. E due, segnalano anche che su base mensile alcuni settori, il farmaceutico ha fatto più 2%, quello alimentare più 0,1%. È vero che sono calati su base annua anche farmaceutico e alimentare, meno 6,7% farmaceutico, meno 8% alimentare, ma nulla a che vedere con tessile, abbigliamento, pelli, accessori, meno 80%, trasporti meno 74%, autoveicoli meno 100%. È da questi dati che possiamo partire per fare quello che io chiedo da settimane, un'analisi dettagliata dei settori, non parlare di imprese come se l'impresa dei servizi o del commercio fosse identica alla manifattura, oppure la farmaceutica fosse identica al tessile, abbigliamento? Ma sì, nel senso che intanto ricordiamoci che questo è il mese nero per tutti i paesi del mondo. Negli Stati Uniti aprile è stato il più alto tasso di disoccupazione, se non sbaglio, dalla Seconda Guerra Mondiale. Prende il Regno Unito, i sussidi alla disoccupazione hanno toccato il livello record di sempre, e i numeri di maggio saranno drammatici ma migliori dei numeri di aprile. E quindi non focalizzerei troppo su questo. Certamente invece, come dice lei, in questo le analisi dell'Istat sono molto importanti, perché dettagliano settore per settore, cioè aggiungo l'energia, per esempio, voglio dire, siamo stati tutti a casa, quindi è ovvio che certe cose, tra virgolette, anche se poi è vero che molte imprese sono rimaste chiuse, l'energia è un altro settore che non è stato colpito, però c'è tutto un dettaglio importantissimo che è uno strumentario fondamentale per un ministro dell'industria o un ministro dell'economia per ritagliare gli interventi o ritarare la ricostruzione, certamente. E qui vengo alla seconda parte, cioè secondo me gli stati generali dell'economia, per carità, speriamo che portino qualcosa di operativo, ma avrei preferito modestamente tanti piccoli tavoli dedicati ai settori, quindi non so, un tavolo in cui tu inviti esponenti del mondo della ristorazione, degli alberghi e del catering per capire come funziona quel mondo, in un altro il mondo del teatro, del spettacolo, intrattenimento, cioè non i tavoli allargati con 32 persone, ma tavoli piccoli in cui inviti anche chi conosce quel settore per distinguere tra un settore e l'altro. Però magari una mia così fissazione, magari è corretto dare in questo momento la cornice generale, quindi vorrei sentire la sua opinione sugli stati generali dell'economia. Ah, ecco dove andava a parare, adesso capisco. E non ci siamo coordinati, quindi io la prendo da un'altra parte per arrivare esattamente dove credo dove arriva lei. Ci sono quattro parole con la I che dalla meno importante alla più importante, che nella mia testa personalmente caratterizzano questi stati generali. Uno, inusuale. Io non conosco un paese al mondo che abbia di fatto interrotto il dibattito operativo sulla politica economica sia per questi stati generali. La seconda cosa che mi viene in mente è la parola incompetenza, e mi sembra anche una sconfitta della politica e della burocrazia intesa come parola bella, perché aspetta alla politica e alla burocrazia essere collettori delle esigenze della collettività. Se tu ti affidi a un numero limitato di esperti rischi di correre guai mostruosi. Io faccio solo l'esempio, la prima cosa che ho fatto, io ci capisco di appalti pubblici, e quindi la prima cosa che sono andato a vedere era quali erano le proposte, la scheda famosa sugli appalti pubblici, me la leggo e mi prendo un coccolone, mi trovo che una singola persona ha deciso, per esempio, una cosa di cui parlavamo 20 anni fa, che da 20 anni sappiamo essere un errore mostruoso, e la cosa che va fatta in Italia in questo momento è centralizzare gli appalti e fare gare grandi. Mentre tutto il resto del mondo sta dicendo quanto è importante adesso usare la leva degli appalti pubblici per fare appalti piccoli, per venire incontro appunto al dolore delle piccole imprese, lei si ritrova che per la ragione che affida tutto a una persona sconosciuta le viene fuori la raccomandazione più sbagliata. L'altra cosa, ovviamente, io penso a Draghi. A me Draghi sul Financial Times, che rimane per me un faro, aveva detto una cosa importantissima. Si figuri, ha detto: spicciatevi, fate presto, evitate gli sterili, correte. A me mi sembra che qui stiamo rallentando terribilmente. E l'ultimo punto, la ultima I, è la questione chiave. Se tu vuoi fare qualche cosa in questo momento, di cosa c'è bisogno? Ma lei ha detto la cosa giusta, prendi i vari settori e li riunisci, lì c'è l'expertise, la vera conoscenza, c'è la sofferenza vera, non la sofferenza di 15 professori riuniti a un tavolo che non ne sanno niente. Bravo, di quello che sta succedendo nella vita reale. Però le dico anche un'altra cosa: se vuole veramente un altro tavolo, che aggiungo il mio ai suoi, noi tra un anno, certamente enorme ritardo da parte Europa, ci hanno detto che ci danno 170 miliardi di euro, e noi dobbiamo farci trovare nel momento in cui la cassa si apre dei 170 miliardi pronti, con 170 miliardi di progetti e ovviamente di governance in questi progetti di investimenti pubblici. Io penserei che la prima cosa che dovrebbe fare un primo ministro è dire: adesso buttatemi giù tutti i progetti, andiamo a stringerli fino a quando non arriviamo quello a 170 miliardi. Allora io non voglio, guardate, non è una critica politica al governo, però se c'è qualcosa che secondo me è sbagliato o rischia di far perdere tempo, non è che produca, l'errore più grosso degli stati generali è che il rischio di non produrre nessun elemento operativo, cioè quelle che in inglese si chiama l'execution. Siamo tutti bravi qua a fare, a disegnare progetti, poi gli inglesi, che hanno tanti difetti ma sono un popolo molto pragmatico, sanno che la differenza tra un'idea e un'altra idea è l'execution, cioè come la porti a terra, come la realizzi, punto e basta. Perché io posso avere tutte le idee più belle del mondo e poi restano solo idee. Allora il rischio più grosso secondo me è che non si esca se non con dei piani generali. Faccio un esempio concreto, visto che qualcuno mi dice: ma lei cosa farebbe? Faccio l'esempio di un produttore di beni durevoli. Io spero che il governo si sappia bene cos'è la differenza tra un produttore di beni durevoli, di beni semidurevoli oppure di beni a frequente consumo. Un produttore di beni durevoli che produca macchinari, forni industriali, pompe idrauliche di grande valore, sono contratti delle volte che valgono milioni di euro, non fattura come un commerciante giorno per giorno, ha delle commesse, dei clienti, degli ordini che magari vince o ottiene a gennaio o a novembre, deve realizzare l'impianto per poi spedirlo e la fattura magari arriva ad aprile. Ora, se tu vai a vedere il fatturato di questo signore ad aprile, sembra che questo qui non abbia avuto un calo, ma in realtà poi lo avrà nei mesi successivi, perché proprio i beni durevoli hanno questa caratteristica, che si ci mette un grosso investimento che non si realizza in un acquisto quotidiano. Altra cosa è vedere il mondo del commercio o degli spettacoli o del turismo, che invece i fatturati li vede settimana per settimana, mesi per mesi. Piga, a me sembra che qua, un po' perché una parte del governo, e tipicamente non ho problemi a dirlo, il mondo che viene dai 5 Stelle, ha poca dimestichezza con il mondo dell'impresa, o ha un'idea dell'impresa, diciamo, si continua a parlare di imprese, che non vuol dire nulla secondo me, impresa così, detta così, a mio avviso non vuol dire nulla, e vorrei su questo spostarmi anche al suo ragionamento sul piano Colao. Ha un senso ancora continuare a parlare di imprese? Eravamo tutti forse simili con il lockdown, ma adesso Tolstoi diceva ogni amore è infelice a modo suo, ecco, anche forse le crisi aziendali sono ognuna un caso a sé. Assolutamente sì, e io però torno al dove batte, dove fa male il dente, nel senso che io continuo a dire bisogna occuparsi di lì dove c'è il dolore più alto. Il dolore più alto sta nella piccola impresa. Le devo dire che dopo aver messo la parola appalti, io dentro le schede di Colao ho messo la parola PMI e mi sono venute le solite ricette sulle piccole e medie imprese, che assolutamente se le leggesse un microimprenditore si metterebbe a ridere, perché ci sono le solite riforme sulle start-up, le solite riforme sul capitale d'ingresso, sul venture capital, mentre qui in questo momento le piccole imprese hanno bisogno di un piano emergenziale. Lei si ricorda che noi ogni 30 giugno, tra l'altro, sì, ci siamo per la decima volta dal 2011, quando è stata approvata quella bellissima legge che ha voluto l'Europa, chiamata Statuto delle Imprese. Ogni 30 giugno il Ministero dell'Industria, insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve portare in Parlamento per l'approvazione il disegno di legge annuale per le piccole imprese, dove si dettagliano tutti gli interventi a favore di queste. E in questo momento, ce lo sono scordato per 10 anni di seguito, ogni singolo anno, non portandolo mai. Quest'anno però era l'anno per cui dici tu fai il disegno di legge per le PMI. Tu leggi quel documento di Colao e ti accorgi che le PMI praticamente sono qualcosa di assolutamente, sembrano citate come se stessimo in un periodo normalissimo di crescita normale dell'economia e non un momento straordinario. E lei si legge, lo ripeto, l'articolo di Draghi sul Financial Times è tutto legato al fatto che ci sono delle imprese che spariranno per sempre e ridurranno per sempre il nostro reddito potenziale, perché ridurranno la nostra capacità produttiva. E quelle imprese si chiamano piccole imprese ed sono il tesoro della nostra nazione. L'emergenza numero uno è quella. Ma io guardi, sono d'accordissimo con lei. Dunque, mi scrive un ascoltatore, ma sembra che voi due, sembra che con tutto il rispetto abbiate vissuto per anni in un mondo perfetto. No, guardi, il professor Piga l'abbiamo avuto ospite molte volte, ma anche sottoscritto, no, le critiche e i ritardi di questo paese, adesso parleremo della scuola, esistevano anche prima. Il problema adesso, e non è colpa del governo, il problema è che tu hai un orizzonte completamente cambiato. Non hai più i margini di prima, vuol dire anche il tempo di prima, hai da predisporre un piano credibile per l'Europa per prendere i soldi, non solo quelli del MES, ma quelli che arriveranno dal Recovery Fund e via così. Quindi alcuni atteggiamenti di prima, che non andavano bene neanche prima, non sono colpa di questo governo, di questa maggioranza di governo, ma ce li trasciniamo dietro da 10 anni, 15 anni, adesso però non sono più sostenibili. È come se uno, diciamo, che avesse dei vizi sulla sua salute, un conto è andare avanti quando tutto sommato stai ancora bene, un conto quando stai correndo un rischio mortale, come il nostro modello di impresa. L'ultima domanda che ho per lei riguarda gli uomini, perché questo è inutile andare tanto sui massimi sistemi. Le scelte poi le fanno gli uomini e le competenze di questi uomini. Ora, io ho detto come battuta che un paese che si permette di tenere Carlo Cottarelli a fare l'osservatorio e non dargli in mano la spending review per andare a capire dove si può risparmiare, o un Mauro Moretti, così mi becco anche le critiche di tutti quelli, che ha creato l'alta velocità in Italia, non chiedere a lui di come si fa a far partire velocemente ste cavolo di grandi opere, mi sembra una follia. Ho citato due nomi. Secondo lei, Piga, c'è un problema anche di nomi? E se sì, voglio essere molto esplicito, perché c'è paura che uno bravo Teoscuri, che è il male della politica italiana negli ultimi anni, per quello che ho visto io, prego. C'è un problema a me, per me, io non credo che un uomo solo al comando. Non citiamo l'uomo solo al comando, per carità. Ecco, so che lei è d'accordo su quello. Io credo che però ci sia un problema di individuare una squadra di dirigenti della pubblica amministrazione che comandino questa grande battaglia dei 170 miliardi. Noi abbiamo bisogno di una serie di luoghi dove fare gare d'appalto con persone estremamente competenti, grandi dirigenti che sappiano guidare squadre, e credo quindi che manchi una fiducia d'insieme rispetto alla pubblica amministrazione che sta bloccando tutto, per cui lei non dà le leve del comando in basso, non crea le squadre che dovranno far parte. Io immagino, per esempio, da tempo si dice che l'ambito territoriale ottimale per fare gli appalti, al di là di quelli grandi nazionali, sia quello provinciale. Allora lei si immagini di fare 108 stazioni appaltanti legate al territorio, con 108 uomini a cui lei dedica tante risorse per prendere una squadra di giovani brillanti, e si parte. Però c'è bisogno di una governance di queste cose. Governance vuol dire delegare, e delegare vuol dire uomini. La Francia, la Germania hanno delle pubbliche amministrazioni guidate da dirigenti a cui vengono date responsabilità e obiettivi, ed è questo il modo di raggiungere. Poi può essere Cottarelli, può essere Conte, può essere quello che ne pare che sta su, ma sotto poi, se c'è solo Cottarelli, Cottarelli ha già fatto un'esperienza da solo al Ministero dell'Economia e l'hanno lasciato da solo. Quindi non basta, bisogna dare delle squadre, bisogna dare competenze. No, anche perché se lo metti da solo e hai contro tutte le strutture tecniche, poi resti bruciato. Voglio fare un esempio usando lei di cosa significa la competenza, perché alcuni mi dicono: ma come, perché non la grande stazione appaltante? Professor Piga è stato per anni responsabile della centrale acquisti della pubblica amministrazione e l'ha già spiegato altre volte, ecco perché bisogna entrare poi nei dettagli. Non vanno bene le micro stazioni appaltanti, quelle che facevano il prezzo della siringa o dei cerotti 16 volte più alto in Calabria rispetto alla Val d'Aosta, ma non vanno neanche bene quelle troppo grandi, perché se tu fai un ordinativo da 100.000 pezzi e tagli fuori tutto il mondo delle piccole imprese italiane. Quindi si tratta di trovare una misura adeguata che non faccia esplodere i centri d'acquisto, le stazioni appaltanti, ma non tagli neanche fuori tutto il mondo delle piccole e medie, magari a vantaggio di una grande multinazionale e basta. Ecco perché bisogna sapere, non bastano gli slogan, tutte piccole o tutte grandi, no, servono anche quelle medie con tagli medio-piccoli, in modo che possano partecipare alle gare anche le nostre piccole e medie imprese. Grazie al professor Gustavo Piga, andiamo sul GR24, poi la borsa e poi il capo del comitato tecnico scientifico che ha deciso come e quando riaprire la scuola italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Sono Mercedes-Benz Vito. Io e i miei amici Sprinter e Sitana siamo pronti a ricominciare. A ricominciare dal tuo lavoro, dal lavoro di milioni di italiani. Siamo pronti a ricominciare da zero, dall'anticipo zero. E da 6 piccole rate iniziali. Mercedes-Benz è vicino a chi riparte. Per questo potrai avere Vito, Sprinter e Citan senza anticipo e con 6 mini rate iniziali di 30 euro al mese. TAG massimo al 307. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Presso le concessionarie aderenti all'iniziativa. Gli anni 90, che anni, che ritmo. Nord, sud, ovest, est. È forse quel che cerco e neanche c'è. Ma sì che c'è! Se cerchi un software gestionale che ti permetta di gestire i tuoi processi aziendali, sempre e ovunque, in ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud, oggi c'è! Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e di Business Analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Ogni bambino ha il diritto di crescere sano e istruito, ma a troppi di loro questo diritto viene negato a causa di malattia e povertà. Con un lascito testamentario a Mission Bambini puoi illuminare la vita di tanti bambini in difficoltà. Donagli la possibilità di crescere sotto una buona stella, la tua. Fai un lascito testamentario a Mission Bambini, perché ogni bambino è il futuro del mondo. Visita il sito missionbambini.org. Focus Economia. 18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso, prima di arrivare alla borsa, i dati, l'aggiornamento dei dati diffusi poco fa dalla Protezione Civile. Partiamo dai dati cosiddetti clinici, quindi persone in terapia intensiva 13 in meno, un meno 5%, che è assolutamente in linea con ieri e anche tutta la settimana, adesso come media. I ricoverati meno 4,4%, 202 persone in meno, un po' più forte ieri, ma sostanzialmente il dato anche qui è di sopra i 200, è migliore di tutta la settimana ed è in linea con la settimana scorsa. I decessi, il dato buono quando si parla di decessi sembra quasi un ossimoro, però insomma sono 53 decessi, che è il dato più basso da domenica e anche delle ultime, a mio avviso, dalla serie che vedo io, è il dato più basso in assoluto assieme ai 53 registrati domenica scorsa. Adesso vado a vedere le altre serie storiche. E poi invece i contagi sono leggermente risaliti, sono 379, ieri erano 200 in più, martedì 280 come lunedì, certo venerdì avevamo fatto 518, ma sono tornati su un livello più alto della settimana, inutile girarci attorno, sopra i 300 i nuovi contagi. Sappiamo che lì però conta molto il numero di tamponi, ecco perché citiamo terapia intensiva, ricoveri complessivi e decessi. Comunque la borsa ha chiuso sui minimi, ma c'era da attenderselo, quasi il 5% di tonfo a Milano, meno 4,80%, meno 4,70% a Parigi, meno 4,5% a Francoforte, meno 4% a Londra, meno 4,60% il Dow Jones. Allora, le agenzie recitano come causa di queste vendite l'allarme lanciato dall'Università di Washington, ripreso da CNN, sulla seconda ondata, sul numero di morti che causerebbe negli Stati Uniti, dove siamo già a 110.000 morti, tra settembre e ottobre un nuovo picco con il rischio tra 133.000 e 290.000 persone decedute. Non ho capito bene se però questa stima dell'Università di Washington sia stata anche, tra virgolette, un pretesto per andare a vendere dopo giornate di rialzi, settimane di rialzi. Giro la domanda a Enrico Miele di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Enrico. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, è stato anche un pretesto o c'è un ragionamento più forte sui fondamentali? Allora, diciamo che da sedute ormai si attendeva una correzione importante dei listini, perché come abbiamo ripetuto più volte ultimamente, tra la corsa delle borse innescata soprattutto da inizi giugno con una serie di piazze finanziarie, tra cui Milano, Francoforte, tornate ai livelli di inizi marzo, quindi sostanzialmente dei livelli pre-lockdown, sì, e i dati dell'economia reale, c'è stata, ripeto, in questa fase uno scarto importante, cioè non si sono visti dei riflessi su andamento dell'economia che giustificassero la corsa dei listini. In realtà parliamo sempre di economia reale perché l'allarme, non l'allarme, però la prudenza ieri della Fed ricordava proprio questo, cioè tempi lunghi per una ripresa dell'economia per tornare ai livelli pre-Covid. Sì, sappiamo, ne abbiamo parlato anche con Mario Longo la settimana scorsa, che il rally delle borse era dovuto anche all'azzeramento dei rendimenti di altri investimenti, penso quelli obbligazionari. Quindi ci confermi in qualche modo che tutto sommato c'è margine per far realizzi, diciamo così? Esatto, sì, anche perché sono alcuni comparti, come ad esempio quello del credito, che aveva recuperato in maniera importante le ultime sedute e che da quando è iniziata a balenare l'ipotesi che in realtà i dividendi nel 2020 poi non verranno distribuiti neanche nella seconda parte dell'anno come molti banchieri speravano, ecco, lì sono scattati immediatamente i realizzi. E allora andiamo a vedere, anche se appunto in questo quadro è difficile fare distinguo, i cali, i crolli: CNH Industrial meno 11,80, Atlantia meno 9, Pirelli meno 8,5, Telecom meno 8,20, Unicredit meno 7,80 come Banco BPM, Exor e Fiat Chrysler. Il 7,5 lo perde Saipem e Ferragamo, il 7,2 Tenaris, il 7% Eni e Banca Mediolanum, il 6% lo perde Leonardo, Biper Banca e Azimut, il 5,90 il calo di Banca Generali, il 5,70 quello di Buzzi Unicem, Ubibank e Ubibanca. mi fermo col 5%, Poste Italiane meno 5,20 come Prismian e A2A di Assorin, l'unica positiva tra quelle, maggiore capitalizzazione più 2,32%. Attenzione, è ovvio che visti così sono tonfi potentissimi, andate a vedere però la serie storica dei movimenti di borsa che, come ricordava poco fa Enrico Miele, si erano riportati ai livelli pre-Covid e tutti quanti si chiedevano come mai vi fosse un tale scollamento giustificato solo con la grande massa di liquidità che non sa dove essere investita, diciamo, perché le prospettive economiche vanno in direzione opposta. Abbiamo visto ieri l'Ocse stimare i crolli del PIL a seconda che vi sia o meno una seconda ondata. Secondo me un esercizio anche abbastanza inutile quello di stimare un crollo del PIL con una seconda ondata. Grazie Enrico Miele. E adesso invece torniamo su un tema che abbiamo seguito in maniera anche molto accalorata, perché è un tema a cui tengo tantissimo, la riapertura della scuola italiana, come riapriranno le scuole a settembre, e lo facciamo con chi è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico presso la Commissione Istruzione e Cultura della Camera dei Deputati, quindi quello a cui hanno guardato anche l'altro comitato, quello di Patrizio Bianchi sulla scuola, per capire come, se e quando si potesse riaprire. Allora chiedo venia perché Agostino Miozzo è coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico alla Protezione Civile. La Commissione Istruzione e Cultura della Camera dei Deputati l'ha ascoltato ieri per capire appunto come, quando e perché si sia deciso di riaprire in un certo modo. Chiedo scusa per la crasi e ringrazio allora Agostino Miozzo, ripeto, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Miozzo, adesso vengo a poi la parte vostra, però la Francia ha riaperto le scuole l'11 maggio in parte, poi il 18 maggio con le scuole medie, l'11 maggio era su base volontaria solo l'elementare, gli asili nido, 18 maggio le medie, dal 2 giugno anche i licei. A decidere se riaprire o meno le scuole sono i sindaci che hanno avuto la delega dal governo. Almeno un metro tra gli alunni e massimo 15 studenti per classe. Il ritorno non è obbligatorio ma è facoltativo, anche se consigliato ai bambini più piccoli. Al momento siamo a un quinto degli studenti di materna elementare che è tornato a scuola e al 30% per le scuole medie. In Spagna, cito due paesi molto simili a noi come contagi e decessi, in Spagna anche lì le scuole hanno riaperto, devono indossare la mascherina ogni volta che non possono mantenere i 2 metri di distanza, non più di 15 alunni in classe. Domanda, secondo lei da noi non si è nemmeno tentato di fare una riapertura, anche se su base volontaria, anche se magari a rotazione, come hanno fatto paesi, ripeto, molto simili a noi per dati di contagio, e quindi Francia e Spagna? Beh, guardi, Francia, Spagna e altri paesi hanno preso delle decisioni sulla base di valutazioni epidemiologiche, statistiche, di evoluzione di quell'epidemia nei vari paesi. Noi, guardando i nostri dati, guardando la nostra curva epidemica, abbiamo ritenuto che anche in considerazione del calendario scolastico del nostro paese fosse ritenuto opportuno per il momento soprassedere, anche perché il calendario scolastico avrebbe previsto comunque la chiusura nei primi giorni di giugno e quindi questa opzione non è stata presa in considerazione. E voi non avete provato a vedere se magari si poteva allungare il calendario scolastico, visto che appunto gli alunni sono a casa da fine febbraio? Vede, non siamo noi coloro che devono decidere se allungare o accorciare un calendario scolastico. Al Comitato Tecnico Scientifico è fatta una richiesta di valutazione della situazione epidemiologica, della situazione dell'andamento della patologia in questo paese. Questa è la nostra competenza. Altri hanno altre competenze. Senta, se vuole, lei mi sta dicendo di Francia e di altri paesi. Sì, e Spagna. Come ho detto ieri alla commissione che mi ha audito, la riapertura probabilmente un po' accelerata, forse fatta senza le dovute precauzioni ha visto poi delle situazioni dove le scuole devono essere richiuse perché ci sono dei focolai epidemici. È avvenuto in Germania, è avvenuto in Francia. Devo dire molto poche rispetto alle scuole aperte, però Miozzo. Senta, un'altra domanda su questo, però. In Francia e in Spagna hanno scelto la linea, e qui invece parlo la parte della protezione civile, del comitato tecnico scientifico, di dire attenzione, ci sono aree verdi e gialle proprio nella mappa, per cui faccio un esempio: il sud della Spagna, che era molto poco toccato, il sud della Francia, che era molto poco toccato, era zona verde anche sulle riaperture delle scuole, e altre zone erano gialle o chiamiamole rosse, penso all'Île-de-France, al nord della Francia, nord-est, alla zona di Madrid e alla parte dei Paesi Baschi, in parte alla Catalogna. Voi avete mai suggerito che vi potesse essere un'apertura differenziata, per esempio tra regioni come la Calabria, l'Umbria, la Sicilia, la Basilicata e regioni come la Lombardia? Vede, queste regioni hanno un indice epidemico che sta migliorando moltissimo negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, 10 giorni, fino a 2-3 settimane fa. Non era esattamente così. I dati che avevamo noi ci davano verso la seconda metà di maggio una possibilità globale, complessiva del territorio di un innalzamento di quell'indice di trasmissione a dei livelli decisamente preoccupanti qualora avessimo riaperto tutte le scuole. Noi non abbiamo fatto quella distinzione che lei sta dicendo. Questa distinzione potrà essere fatta probabilmente nel futuro, visto l'andamento decisamente favorevole dell'epidemia nel paese, visto il fatto che alcune regioni del nostro paese stanno dimostrando dei dati decisamente favorevoli e positivi, e visto che è stato messo in atto un meccanismo di controllo e di monitoraggio sanitario decisamente molto importante e sì, veramente efficace. No, ho capito, però io penso che sia stato, glielo dico molto tranquillamente, un errore madornale trattare tutto il paese nello stesso modo, a maggior ragione quando, ho capito quello che mi dice, un mese fa era un altro film, ma quando un mese fa Spagna e Francia hanno iniziato a dire guardiamo l'indice epidemiologico, alcune regioni, obiettivo, io non ho ancora capito perché un ragazzino delle medie, poniamo delle superiori, in Calabria o in Molise, in Basilicata, in Umbria, sia stato tenuto a casa, magari poteva andare al parco a giocare, poteva andare, stava coi nonni, quindi auguri sull'indice di contagio, quando aveva un contagio così basso, trattato allo stesso modo del suo coetaneo lombardo o piemontese, dove obiettivamente gli indici erano diversi, se no che cosa li guardiamo a fare questi indici di contagio? Non ho veramente capito perché si sia scelto di tenere tutti a casa nello stesso modo, però ci dica adesso le indicazioni che avete dato, poi, perché è chiaro che la scelta è politica ed è del ministro Azzolina e del governo Conte. Ma il plexiglass l'avete suggerito voi? Perché Azzolina prima ha detto stiamo valutando, che mi ha fatto imbestialire perché eravamo già a inizio giugno, poi ha detto nessun plexiglass, ma insomma sto plexiglass c'è, non c'è, c'è e scompare, è talmente trasparente che non si vede, mi dica. Guardi, noi in comitato non abbiamo mai preso in considerazione l'ipotesi plexiglass, anche se qualcuno ha formulato l'ipotesi plexiglass e la cosa non ci sconvolge più di tanto, nel senso che l'ipotesi plexiglass in situazioni di particolare emergenza, in situazioni di particolare specificità, laddove sia indispensabile utilizzare questo strumento, se questo strumento viene utilizzato con le dovute cautele, con tutte le precauzioni del caso, garantendo la sicurezza degli studenti, eccetera, questo è un problema che dovrà essere deciso localmente. Tendenzialmente e globalmente noi non abbiamo dato l'indicazione di usare plexiglass per dividere i banchi, abbiamo dato delle indicazioni che sono distanziamento, igiene personale, igiene delle mani, igiene dell'ambiente e utilizzo, se possibile, per quelli che lo devono avere, delle mascherine al di sopra dei 6 anni, come indirizzo oggi, questa indicazione viene data in questi giorni, avendo detto in tutte le salse, in tutte le occasioni, che questa è una valutazione che in prospettiva può modificarsi senza alcun problema. Beh, cioè, speriamo. Perché è un'epidemia che si sta modificando e la conoscenza di questa epidemia sta maturando giorno per giorno, nessuno ha la Bibbia trascritta sull'epidemia, perché gli studi, come lei sa, come ci insegnano... No, ma per carità, nessuno ha la Bibbia, però insomma poi le decisioni vanno prese, mi rendo conto, con gli strumenti anche delle volte approssimativi che uno ha, essendo un'epidemia nuova, ma poi le decisioni vanno prese. Su questo voi avete dato, voi avete capito se a questo punto, io facevo l'esempio della Francia, il governo ha detto ai sindaci, decidete voi che conoscete il territorio, le scuole di pertinenza, mi riferisco chiaramente alle scuole dell'infanzia, come aprire. Ecco, voi ritenete che vi debba essere un'autonomia forte su base comunale e regionale? Guardi, proprio ieri si è tenuta una videoconferenza tra gli uffici regionali della scuola e gli uffici regionali di protezione civile, perché noi riteniamo, noi abbiamo suggerito al Ministero dell'Istruzione che la competenza regionale nella conoscenza del territorio, nella conoscenza reale di quelle che sono le disponibilità e la fotografia del territorio e dell'ambito scolastico è fondamentale, e mettere insieme istruzione e protezione civile consente all'istruzione locale di poter beneficiare delle risorse di protezione civile in situazioni particolarmente critiche, disagiate, laddove una situazione di emergenza può richiedere la tradizionale intervento del protettore civile. Senta, mi ho un'ultima domanda per lei. La critica che vi viene mossa è che avete avuto 3 mesi di tempo, marzo, aprile, maggio, e poi le indicazioni che sono arrivate, non è che io le stia contestando, però erano indicazioni, non è che siano stravolgenti. Utilizzo la mascherina dai 6 anni in su, distanza di almeno 1 metro, igiene della persona e degli ambienti. Ma voglio dire, lo dico senza provocazione, ma non si poteva formularle prima queste indicazioni? Anche perché in Veneto, per esempio, hanno riaperto gli istituti professionali, è molto difficile quando tu hai un istituto professionale fare lezioni a distanza, non hai laboratori, non hai le strutture. Non è, diciamo, per arrivare a dire l'utilizzo della mascherina, l'igiene delle persone e degli ambienti, è 3 mesi che ce lo dice il governo, siamo tutti d'accordo. Ma non si poteva dar prima sto giudizio, Miozzo? Guardi, non sono d'accordo con lei, mi dispiace. 3 mesi fa eravamo nel caos globale di questa pandemia. Oggi siamo all'inizio di giugno, 3 mesi fa voleva dire marzo, se ben ricordo, marzo, aprile, maggio, giusto. Nella metà di marzo eravamo nel caos, eravamo in una situazione dove si vedevano i camion dell'esercito portare via al fare. Aprile meno, però. Tre mesi fa. No, non voglio capire, mi faccio una cosa, ma per esempio sulla cosa più delicata, come si spostano sti ragazzi per venire a scuola, o l'utilizzo delle aule, io non ho letto però poi cose, forse mi sono sfuggite, almeno su quello avete... Cioè, tanto voglio dire, sapevamo che prima o poi si sarebbe dovuta riaprire la scuola. Chiedo la decisione sugli spostamenti, proprio concretamente, perché ancora un minuto, qual è? Guardi, noi sul tema spostamenti per noi è molto chiaro, perché abbiamo 9 milioni di studenti. Per e quindi non mi dica cosa devono fare nella vostra indicazione gli studenti e le classi. È la seguente, innanzitutto per gli studenti più grandi, quelli degli ultimi anni della secondaria, potrebbe essere prevista o preferibile o ipotizzabile uno slittamento orario per consentire innanzitutto una movimentazione di questi ragazzi che in genere viaggiano da soli e vanno con la loro bicicletta, motoretta, macchinetta, quello che vuole, autobus. Uno spostamento in autonomia e consentire ai più piccoli di andare con meno caos, generando meno affollamento. L'affollamento è l'aspetto critico, l'affollamento negli ingressi, l'affollamento nel momento... Quindi il vostro consiglio è lo scadenzamento dell'ingresso negli autobus. Se è possibile, soprattutto nei centri urbani, perché nelle realtà periferiche, anche qui è fondamentale la conoscenza del territorio, ma che ci importa di dare un'indicazione a un ragazzo di un paese di territorio? No, ma guarda, io sono talmente, nel ringraziarla, sono talmente d'accordo con lei che poi sia importante anche l'indicazione del territorio, che avrei voluto anche un'indicazione di carattere territoriale per la riapertura delle scuole in base agli indici di contagio, e torno dove ero partito, ma ho capito che tanto non ci si riesce. Io devo concludere perché è terminato il mio tempo a disposizione. Grazie al coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, Agostino Miozzo. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, intanto l'augurio di una buona serata.